Ci sono notti che non si dimenticano, notti da brivido, notti da panico, notti che non finiscono mai, notti che lasciano il segno, notti che vanno raccontate. Notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto per vivere insieme l'avvio degli esami di maturità. I ricordi di ieri e le paure di oggi, le testimonianze di chi l'ha già affrontato e le emozioni di chi si sta preparando, le dritte degli esperti e le voci dei maturandi. Una maratona a microfoni aperti per raccontare la notte prima degli esami. Lunedì 21 giugno dalle 21 a mezzanotte in diretta. Siete tutti ammessi, su Radio 24 naturalmente. In collaborazione con studenti.it.